entriamo qui un attimo. Cosa ne pensi? Sì, anticorruzione. Sì. Vai. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. E noi siamo qui con una radio, Radio Antidoto, ma in questo momento siamo in diretta. Siamo qui per raccontare Ormea. Sì. E volevamo parlare un po' anche con le attività commerciali per farci raccontare un po' il paese. Ti andrebbe? Posso darti il tuo per cominciare? Sì, certo. Allora, intanto io mi chiamo Cristina. E io sono Francesco, piacere. Piacere, io mi chiamo Aurora. Piacere, Aurora. Allora, non so se ci vuoi raccontare qualcosa della tua attività, di te, di Ormea, insomma. Beh. E brevemente, poi brevemente. Ti facciamo magari una o due domande se ti va. Va benissimo, dai, ci provo. Sono un po' timida, ma cerco un po' dai, di sbloccare. Siamo qui. Siamo solo noi. Ci provo. Va benissimo. Allora, mi chiamo Aurora, ho quasi 21 anni e abbiamo questa attività da circa 3 anni. Con la tua famiglia? Con la mia famiglia, sì. E prima avevamo solo un negozio di abbigliamento per bambini giù nella via. Adesso ci siamo spostati qui con un negozio di oggettistica in più e il negozio di bambini qui a fianco e presto aprirò l'edicola. Ecco, sì, ci hanno detto che stanno facendo un cambio di gestione, allora siete voi stessi. Sì, siamo noi, sì, sono io che prenderò l'edicola. Bello. E tu sei nativa di Ormea, nata e cresciuta qui? No, io in realtà sono nata a Sanremo e ho vissuto a Seborga per 16 anni. Il Principato di Seborga. È il Principato, sì, per 16 anni e poi nel 2021 siamo venuti qua a vivere per un cambiamento anche di clima, che ci sentivamo meglio anche. E com'è la vita qui? Com'è avere 16-17 anni ormai nel 2022-2023? Ma... Beh, era tutto tranquillo, diciamo che piano piano mi sono formata, ho iniziato un lavoro con questa pasta polimerica e dal 2015 che ho iniziato a, diciamo, a lavorare facendo gli orecchini. Quindi questi oggetti che vendi sono fatti da te? No, allora, alcuni oggetti li abbiamo presi in un'azienda che si chiama Art From Italy, invece i quadri, diciamo, le pitture così le fanno i miei, diciamo, più che altro i compagni di mia madre è scrittore, e pittore e anche scultore, diciamo, e invece mia madre è una bambolaia. Wow! Ah! Molto interessante. Le bambole di tua madre come, cioè, le vende, si sono allestite in mostre, come si fa la bambolaia adesso? Allora, sono... Perché è una professione abbastanza antica. Sì, sono allestite in varie mostre e alcune, diciamo, delle bambole di mia madre erano fatte in vinile, faceva anche i reborn o se no anche praticava la porcellana fredda. Wow. Che è tipo una pasta che la lasci ad asciugare all'aperto, ecco. E fa anche il repente, che il repente vuol dire ridipingere la bambola, fare il trucco e parrucco, ecco, e anche i vestiti in stoffa. Wow. Va bene, molto interessante. Ma liberiamo bene. Aurora sì. Da questo terzo. E comunque in bocca al lupo per l'edicola. Certo. E in bocca al lupo per tutto, perché avete, mi sembra, tante cose che abbiamo create. Tante cose. Sì, esatto. Abbiamo ancora tante cose in ballo. E quindi siete qui stabilmente e vi immaginate qui anche nei prossimi 10-20 anni? Sì. Sicuro, almeno. Forse no. Forse, io non lo so, però per adesso sì. Okay. Per adesso starò qua. Va bene, grazie. Grazie Aurora, in bocca al lupo, ciao. Buona giornata.